esistere e non sappiamo scegliere, che il tempo che viviamo è tempo già finito, il cuore non aspetta chi si arrende, non rispetta chi si arrende, noi non cambiamo mai, noi non cambiamo mai, ma ci basta poco per riprenderci quello che è nostro e che ci ha portato via. L'anima, l'anima, l'anima, la vita è tutta ad un fiato, è il tempo sprecato, l'amore infinito che provo per te. La vita è tutta ad un fiato, vestito sbagliato, è il cielo stellato, stanotte con te, stanotte con te. Satelliti impazziti alla ricerca di un pianeta nuovo, per ricominciare e coltivare i sogni che sono svaniti e sono rimasti intrappolati in mille pagine, pronti per rinascere. Non cambiamo mai, noi non cambiamo mai, ma ci basta poco per riprenderci quello che è nostro. La vita è tutta ad un fiato, è il tempo sprecato, l'amore infinito che provo per te. La vita è tutta ad un fiato, vestito sbagliato, è il cielo stellato, stanotte con te. La vita è tutta ad un fiato.